Eccoci, ora mi sentite, spero. Buongiorno, buon sabato a tutte, a tutti. Siamo tornati con la puntata sulla Palestina, siamo leggermente in ritardo, come nostro solito, e nel frattempo, mentre aspettiamo il mio compare per la trasmissione, vi faccio ascoltare un pochettino di musica palestinese. Buon ascolto. Questa era la fantastica Feirouz. Eccoci qua, siamo tornati. Ciao a tutte e tutti, ci sono anch'io stavolta. È arrivato anche Ricky, finalmente. Oggi parleremo di Nakba. Non so se tutti e tutte lo sapete, ma ieri è stata la ricorrenza appunto della Nakba, il 15 maggio. Magari adesso chiediamo anche al nostro ospite di spiegarci un po' lui che cos'è la Nakba Sì, e esatto, noi faremo facciamo un una ripasso. telefonata. Nakba che non è Knafa. No, E no, neanche. Cos'è Ricky. l'altro con cui lo confondo sempre Allora, non lo io? Vabbè, so, comunque non non lo fa so. niente. Non vuoi saperlo? Nakba letteralmente Sicuro che non vuoi significa saperlo? catastrofe? No. Knafa è un dolce tipico palestinese, molto molto dolce, molto molto buono. E appunto, il 15 maggio del 1948 ha ufficialmente inizio la Nakba, anche se in realtà diciamo che l'esodo dei palestinesi e la diaspora era iniziata anche prima, ma ufficialmente viene ricondotta al 15 maggio, esattamente il giorno dopo della fondazione dello Stato di Israele. Ne parleremo approfonditamente con il nostro amico e compagno Naji, che tra poco andremo a chiamare, ma prima volevo mandarvi un'altra canzone di una cantante che io adoro particolarmente, anche lei libanese, ma che è molto vicina al popolo palestinese, Giulia Botros. بتنفس حرية ما تقطع عني الهوى لا تزيدك كتير علي أحسن ما نوقع سوا أنا بتنفس حرية ما تقطع عني الهوى لا تزيدك كتير علي أحسن ما نوقع سوا ما بتقدر أبدا تلغيني بدك تسمعني وتحكيني ما بتقدر أبدا تلغيني بدك تسمعني وتحكيني وإذا فكرك عم بتداويني مش هيدا هو الدواء أنا بتنفس حرية ما تقطع تسمع بكفي كل اللي صار القوة هي اللي بتوقع من وقفت بوش الأفكار هالدنيا بتزعل كل وحدة الحقيقة لون هالكون عبارة Eccoci qua. Eccoci qui. Facciamo una breve introduzione alla persona che intervisteremo oggi. Sì, allora in realtà l'abbiamo già sentito qualche volta, è Naji, un compagno e amico palestinese, presidente dell'associazione LEILAC, con cui noi collaboriamo ormai da tempo attraverso il progetto di West Climbing Bank. E appunto questa associazione si occupa principalmente di politiche giovanili, sociali, proprio rivolte ai più giovani, sia per questo senso di comunità molto forte all'interno del campo profughi di Deisha, ma anche proprio per l'importanza della trasmissione della memoria, della loro cultura, della loro storia. Oggi questo concetto è molto importante proprio perché si parla della ricorrenza della Nakba. Come ho detto prima, letteralmente significa la catastrofe. E, ad esempio, io ricordo l'anno scorso mi trovavo a Deisha di questi giorni e hanno, tra virgolette, festeggiato, perché ovviamente non è proprio un festeggiamento, è proprio un ricordare da dove vengono le loro origini, proprio perché sono tutte famiglie che sono state dislocate dal 1948 in poi, dopo la fondazione dello Stato di Israele. E per questa ricorrenza avevano organizzato una sorta di competizione, che vabbè, non è il vero termine, però tra campi profughi e una specie di quizzettone in cui si facevano delle domande storiche e avevano quindi la possibilità di rispondere, vinceva ovviamente, tra virgolette, chi rispondeva giusto a tutte le domande. Però si poteva, era sensazionale il vederli così stretti, Era uniti. fatto in strada? Come No, no, funzionava? no, dentro le strutture, dentro l'associazione IBDA, e ogni sera si scontravano due campi profughi differenti finché appunto ad Ma in giro per tutto eliminazione West Bank? ne rimaneva soltanto uno, e vi assicuro Campionato. che era sì, una sorta di campionato. Bellissimo. Era bellissimo partecipare, anche se avevo bisogno di qualcuno che mi traducesse tutte le Certo. domande, però come partecipavano dai più piccoli ai più anziani, ovviamente che hanno una saggezza, una conoscenza infinita, e però era palpabile proprio il senso di comunità Certo. fra di loro, anche se di campi profughi molto lontani l'uno dall'altro. Vabbè, io qualche piccola indicazione l'ho data, poi magari durante l'intervista con Naji verranno appunto approfonditi alcuni concetti. Sappiate che appunto dal 15 maggio del 1948 è iniziato questo vero e proprio esodo, il dislocamento di queste famiglie, villaggi palestinesi. Particolare è che sono stati fondati dei campi profughi all'interno della Palestina stessa, quindi sono rifugiati politici nella loro terra natia, ma non solo, anche in Siria, in Libano, in Giordania, e furono più di 700.000 i palestinesi dislocati dal 15 maggio in poi. Io mi Nel. sono. Ah, Sì? scusami, No, no, io mi vai. ero segnato altri due dati. Che appunto con la Nakba, io mi ero segnato che quasi l'85, se non di più, 85% della popolazione. È giusto il livello del microfono, Giulia? Forse un po' basso? Voilà. Perché Giulia è arrivata prima, e vabbè, onore a lei, però si è anche presa il microfono migliore in tutto ciò. Quindi, vabbè, come dire, vabbè. Fa niente, dicevo che con la Nakba circa l'85% della popolazione che viveva in quella che allora era la Palestina, che comprende anche l'attuale Stato di Israele, viene trasferito dai propri territori e questo viene chiamato piano D dagli israeliani, no? E, in particolare con questo piano i soldati circondano i villaggi da diverse direzioni, o meglio, tendenzialmente di solito da tre direzioni, in maniera tale da lasciarne una quarta aperta, che è proprio quella verso cui vogliono indirizzare l'intero popolo palestinese, ed è quella che va verso il West Bank. Ci sono proprio delle mappe, se voi andate a cercare il piano D, che fanno vedere con delle grandi frecce dove è stata indirizzata la popolazione. Questo per dire che c'era proprio un'idea ben precisa di come svolgere questa invasione, non saprei bene come altro definirla. Sì, un'altra cosa che io volevo ricordare in particolar modo è che in realtà nel dicembre del 48 È stata sancita questa risoluzione ONU, la Quattro, giusto? 194, con cui appunto viene deciso il diritto al ritorno di tutti questi profughi palestinesi. Da allora ovviamente non è mai stata attuata ed è una delle rivendicazioni più importanti che ancora oggi i vari compagni che abbiamo in Palestina appunto cercano di attuare, per cui combattono. Secondo me è significativo anche questa cosa, perché quando quest'anno parlavamo con i vari compagni lì in Palestina ci facevano notare come in realtà qualunque essere umano ha il diritto al ritorno, non c'è bisogno di una sanzione dell'ONU che lo stabilisca, perché banalmente io ho il diritto a tornare a casa mia anche quando vado in un altro stato per le vacanze, per esempio, banale, ho il diritto a tornare a casa mia. Per i palestinesi all'improvviso non è più stato così. No, Come se questo diritto, che è un diritto talmente banale da essere, come dire, non c'è sì, neanche questo. bisogno di dichiararlo. Eppure questa risoluzione del 48, del dicembre del 48, ma gli accordi di Oslo del 93, ad esempio, non parlano minimamente di del diritto al ritorno dei palestinesi, hanno proprio dimenticato questo aspetto. Io direi che come introduzione Sì, è va più che bene. sufficiente, diamo la parola. Potremmo parlare per altre ore, ovviamente, perché siamo estremamente informati e bravi. Oddio, sto facendo cadere il tavolo. Ma c'è il ritorno o sbaglio, Giulia? Senti anche tu nelle cuffie? Prova. La, sa, no? Boh. Chiamiamo. Oddio. Sta squillando. Ah, ma forse devi collegare. No, aspetta, qua Ah! Un è al minimo. attimo, certo, che Ah sì, devo scusa. collegarlo. Non, sì, vabbè, non lo raccontiamo. No, oggi, vabbè, come sempre in realtà, ogni volta dico, oggi siamo così e Sì, è invece. anche arrivato in anticipo, non è neanche preparato il cellulare. Eccolo, ora si È sente. altissimo. Ok. Ogni volta fa un suono diverso. Allora. Allo, Nasi? Allo, allo? Ciao Nagi. Do Yes. Can you hear me? you hear us? Yes. Yes. Oh, I hear you well. Great. oh, great. Allah Usalla. Welcome in our radio. أهلا شكرا. Again. أهلا وسهلا شكرا. How are you? I'm fine, I'm fine. We are doing well. Okay. You know, we are doing many things these days, and the Ramadan, and it's very hot, very hot, very, very hot. But we're still moving, we're still moving. Yeah, of course. Naji? Yes, I'm with you. Ok. Naji dice che appunto I knew. che I translated just for the people in Italy. Ok. Dice che appunto sono giorni concitati perché come ogni anno loro vogliono ricordare questa data, questo avvenimento e quindi hanno tante cose da fare, organizzano tante cose, ma nello stesso tempo si sta svolgendo anche il Ramadan, quindi loro durante il giorno sono in completo digiuno e allo stesso tempo fa già molto caldo lì da loro, quindi è difficile, ma loro continuano ad andare avanti, loro continuano a resistere. So, Naji, today we want to talk about the Nakba, because yesterday was the day of this Commemoration? I don't know it's commemoration. in English. Yeah, commemoration is okay. And we would like to know what is about, what happened in the past, and what is happening now in Palestine about the Nakba. Okay. I will try as a short sentence for you. Okay, beginning for the people have a lot of information about the refugees in Palestine. Yeah. Sorry? Yes, yes. We are listening. Okay. Now, during the after Balfour declaration in 1917, now they promised the Israelis to create their own state for people without land, for people for land without people. Now, this is the first. And from that time, they start organized with full support from the British government. Allora, dopo la dichiarazione di Balfour, di fatto viene ripromesso al popolo di religione ebraica una terra senza, è proprio questa la definizione, la citazione, una terra senza popolo per un popolo senza terra, e quindi gli viene prospettata la soluzione della Palestina. Now, in 1948, the Israelis party or movement, whatever radical movement, created as to against the Palestinian in our country, and they created five Zionist movement, which is Haganah, Stern, Balmach, Argun, all these organizations, and they supported by very strong weapon and trained in this country, in the places where the British government, they support them by everything. Now in 48, they were ready to attack some areas in Palestine and to start to occupy the land. Ok, adesso stava raccontando come prima del 48 si sono creati cinque diversi movimenti sionisti all'interno dello Stato palestinese, e ha detto i nomi che io non mi ricordo sinceramente, però vabbè, e che sono supportati, ciascuno di questi erano supportati dal governatorato britannico. E, in particolare erano supportati sia da un punto di vista di equipaggiamenti militari che venivano forniti, sia da un punto di vista dell'addestramento proprio militare. Now, since 48, they done the massacres. They do a lot of massacres, killing the Palestinians, and forced them to leave the place. And they were planning to transfer or to exile all the Palestinians from Palestine to outside the country. But in 48, we can talk about many countries, many villages, many cities already attacked, and when we remember the massacres of Deryazin and Kana and all, they're killing a lot of people, and people, they start moving from their places to their places. When they start occupy the Mediterranean Sea, actually in Jaffa, Haifa, Akko, all the north of Palestine, now they wedge around, just open one way for the refugees, for the displaced people to go to the sea, and they were also preparing ports for the refugee, and they went to Lebanon after that, because there is no way to stay in Palestine. They have to move out, as we say, because of the siege of the British army and the Israeli army in that time. Ok, adesso stava iniziando a parlare appunto del 48, quindi l'anno della Nakba, come abbiamo anticipato, e in pratica ha spiegato che sotto un coordinamento britannico e sionista, quello che succede è un vero e proprio massacro. Questo massacro, lo scopo, come abbiamo anticipato anche noi, è quello di trasferire l'intera popolazione palestinese al di fuori del territorio in cui ha sempre vissuto, in cui vive in quel momento, e in particolare verso le regioni, gli stati che stanno tutto intorno alla Palestina. Lui adesso sta raccontando come inizialmente le città che vengono occupate sono quelle a nord della Palestina e soprattutto sulla costa, in maniera tale da evitare che i palestinesi abbiano un approdo al mare, diciamo, no? E in particolare poi in questa prima ondata del 48 i palestinesi si trasferiscono soprattutto nel Libano. Sì, venivano anche invitati ad andare via tramite barca. C'era proprio venivano preparate le barche per i palestinesi dislocati e sono stati effettuati dei veri e propri massacri proprio per Nagy ha parlato in particolare, ha citato quello di Deir Yassin, uno dei più famosi. L'intera popolazione di questo villaggio è stata massacrata, donne, bambini, anziani, ed è stato usato poi da deterrente per tutti gli altri per di fatto costringerli o ve ne andate o farete la stessa fine di quel villaggio. Yes, Naji. Now, almost, this is a huge catastrophe in that time, and many Palestinians moving. We talk about 7 million, around 7 million Palestinians, they left from that place, I mean, become refugees. But after that, another time, the catastrophe in 1967, while they continue occupy the land, but there is many Palestinians also. They stayed in their places. They displaced from their places. They live in the same in Palestine. They don't move out, but they use some places just near, and they don't leave the country. Now, for those people leaving the country, they went to Lebanon, Syria, Jordan, whatever. Most of them in Lebanon, Syria, and others, they're going around the world. But there is many Palestinians, they still live in displaced from their own houses, but they're still living in the same villages and same cities. Ci dice che nella maggior parte dei casi moltissimi palestinesi sono stati dislocati sì negli stati vicini come la Giordania, la Siria, il Libano, ma non soltanto, anche poi trasferiti in altre parti del mondo. Mentre in alcuni casi non tutti i palestinesi sono stati costretti o comunque sono riusciti a non abbandonare le loro case, sono stati sì dislocati, ma magari spostati in altre case, sempre negli stessi villaggi, ma è ovviamente una percentuale molto bassa e quindi sono rimasti all'interno di quello che poi è diventato lo Stato di Israele. E in particolare queste persone qui, quindi, che sono state spostate dal loro villaggio natale, ma rimangono all'interno, quindi profughi all'interno del territorio palestinese, si chiamano internally displaced, è una delle varie categorie, diciamo, di profughi palestinesi. Because of that, the Israelis they don't succeed. I mean, to practice their planning to have like a Jewish state from that moment without any others. We say others because if you are, they are planning to build a Jewish state from the beginning, but they don't succeed because there is many Palestinians keep staying there and struggling. We call them displaced. They are not refugees, but as displaced, emigrate from their places to their place. Now we talk about 11 million Palestinians in general everywhere. We can talk about 7 million more than 7 million. They are still, I mean, have the right to return back to their homeland from that moment. Ok, ha detto che in quel momento quindi gli israeliani in realtà non sono riusciti a... aspetta che volevo leggere un po' di più. Come si traduce assassin? A Ad ottenere il successo del loro piano, non mi Sì. viene in mente. Vabbè, comunque, non sono riusciti a mettere in atto il loro piano in maniera completa perché, comunque, appunto, non sono riusciti, innanzitutto, a mandare via l'intero popolo palestinese e, secondariamente, a creare uno stato che fosse solo ebreo, solo un Israele con solo ebrei perché, appunto, molti palestinesi continuavano a vivere sul territorio che poi è diventato territorio israeliano. Attualmente ci sono circa 7 Now, milioni the di... majority of Ah. the Palestinians. Sorry, Sorry, Najib. 7 milioni di palestinesi che hanno in teoria il diritto al ritorno nelle loro terre, nelle loro case. Yes, Naji, sorry. Now, in 19, and they created the United Nations, UNRWA, to host, let's say, the refugees. They became refugees from their country to outside or inside. Now they created many refugee camps. They rented, or we don't have a proof that they rented, but they use as a public and private places or to use the place. There is tents, whatever, support by Red Cross and the United Nations in 1940. 48, 1949, and the United Nations, they take the responsibility to support these refugees for the facilities and for the health, whatever they have the right to return back to their homeland. We are talking about 72 years right now, and still the refugees, they are waiting. I can say not all the refugees, they leave the country organized by United Nations, because some of them they don't count. Now we don't know how many even Palestinian they are not recognized by list of United Nations right now. Ok, poi hai detto che mi sono perso l'anno. Quando è che è stato creato l'UNRWA? Dopo il Ok, 48. dopo il 48 viene creato questo organismo internazionale dell'ONU, che appunto è UNRWA, che si occupa proprio dei rifugiati. Anche questo è un caso particolare perché c'è bisogno di creare un organismo che si occupi esplicitamente e in maniera particolare dei rifugiati palestinesi. E si occupa sia di quelli che vengono, come dicevamo prima, internally displaced, quindi quelli che sono rifugiati ma che continuano a vivere all'interno del territorio palestinese, sia di quelli che invece vivono al di fuori del territorio palestinese. E, quindi negli altri stati che abbiamo citato prima, Libano, Siria, Giordania, eccetera. In particolare, come si occupano di questi profughi? L'idea è quella che devono garantire delle condizioni di vita umane e tendenzialmente devono far sì che si avveri quel diritto al ritorno, quindi che questi profughi palestinesi possano poi ritornare alla loro terra. Quello che succede è che iniziano a costruire questi campi profughi che vengono costruiti su terreni pubblici o privati, che vengono presi tramite una sorta di contratto con anche altri stati. Ci sono diversi campi profughi sia dentro che appunto fuori dalla Palestina. E possiamo anticipare che il contratto dura, se non sbaglio, 99 anni, e dopodiché non si sa bene cosa succede. E questi campi profughi appunto sono dove vengono ammassati i profughi palestinesi e in qualche modo aiutati dalle Nazioni Unite che costruiscono, non so, l'ospedale, la scuola e i servizi. Servizi, vabbè, magari spiegheremo un po' meglio quali non Anche la servizi ci Croce sono. Rossa. E E dalla Croce Rossa da quel momento ad internazionale. oggi sono passati 72 anni e stanno ancora aspettando. Esatto. Now, after that, the Israelis, they called it, I mean, the Palestinian 48, when they emigrate to and become refugee to the other country or somewhere in the world. Now they create the state of apartheid state Israel, called Israel, in that moment. And yesterday it was the Nakba Day for the Palestinian, and as what they call the Independence Day for Israel. In 48, and still we can say this is the first group. The second group was after 67 when they started the war. I don't know, they called it war, They emigrate 1 million, more than 1 million person outside as the country in Jordan or another places, even in West. Now, the third, the people they displaced from 6, 7, and 4 days displaced from their places to other other places in Palestine. Now we talk about three kind of refugees or displaced people from their places to the other place, but they are not living in the same place that they should and they're supposed to be. E, allora Nagi ci dice che più di un che la situazione dopo si aggrava ulteriormente dopo la guerra dei sei giorni, dopo il 67, perché un altro milione di palestinesi viene dislocato, viene di fatto allontanato da quella che era da quello che poi è diventato di fatto il loro lo chiamano il 48, ovvero il territorio di Israele attuale come noi lo conosciamo oggi. E dopo appunto la guerra di sei giorni c'è un altro milione di palestinesi da aggiungere al novero dei rifugiati politici e di fatto ci sono tre diverse categorie di rifugiati, ma la cosa che li accomuna è comunque il fatto che sono tutte persone che non si trovano dove dovrebbero essere perché appunto le loro famiglie sono state sradicate dalle loro terre natie o di origine. Now, in 1948 as well, in October, I mean, during the Nakba, when the people, they are moving from, forced to move from their places, they allowed to the Palestinian by their right, in with four, to return back to their homeland as short, we are talking about 2 months or 3 months now, for that our Palestinian refugees, they Nazi their house, the key with them, yes. Sorry, the connection is very bad. We can't hear you so well. Yeah, if you can repeat like the last two sentences. Now, you can just stop me when you don't hear. Yeah. Yes. Okay. Yes. Now the the resolution 194 taken by the United Nations in that moment for the resolution number 194 that explained to the people they have a right to return back to their homeland as much as possible sooner. Now people, when they left their places, they took the key and they left, forced to leave their houses in the mountain or where they go, in order to come back after a few weeks or months, whatever, and the Israeli movement, the Zionist movement, trying to kill anybody. After that, he would like to go and to his place to bring some stuff, food, whatever, covered. From the races, and they killed a lot of huge number of people. They get killed because they going back to their home in order to have some food, whatever, because they start living in the curves in that moment. Ok, adesso Nagy appunto stava raccontando della risoluzione 194 dell'ONU che viene, come abbiamo detto, proclamata sempre nel 48, poco tempo dopo della Nakba, e in particolare appunto risoluzione tramite cui si dice che i palestinesi hanno il cosiddetto diritto a ritorno, quindi di poter tornare alle loro case. E Nagy racconta come la maggior parte dei profughi palestinesi nei momenti in cui C'è stata l'invasione sionista, l'invasione israeliana, e si era portato con sé le chiavi della propria casa, perché l'idea era quella che, vabbè, dopo pochi giorni, massimo qualche settimana, sarebbero potuti ritornare in casa a prendere i loro averi, ma anche banalmente il cibo, gli animali, eccetera, eccetera. E se ho capito bene, dice che quindi tramite questa risoluzione loro capiscono che hanno questo diritto, allora a maggior ragione provano a ritornare alle loro case, ma molti vengono uccisi durante questo tentativo di ritornare nella propria abitazione. Now, the moving for the people displaced from their places in 48, some of them they go to Gaza, some of them they go to Lebanon, some of them they stay in their places, while Gaza was not under the Israeli occupation in that moment. In Gaza, it's a part of it. And the people, they keep staying there with their key, actually, because we are talking about 65% from the Palestinian inhabitants. They were displaced from their places to the West Bank and Gaza Strip as well. Ok, ha detto che tra gli altri stati, okay, o zone in cui i palestinesi profughi si sono rifugiati dopo l'invasione israeliana, c'è anche Gaza. Perché? Perché Gaza era un territorio che in realtà non è stato occupato dall'esercito israeliano, quindi come dire, era ancora un territorio libero, e molti palestinesi si sono recati lì sempre con la loro chiave, nell'idea che comunque quello lì era ancora stato di Palestina, quindi lì avrebbero trovato una casa e da lì poi sarebbero potuti ritornare nelle loro abitazioni grazie al diritto al ritorno. Now, after that, we can talk also during that time, 30 is Lebanon, Syria, and Egypt. Now, Naji, wait, we didn't hear anything. Can you repeat, please? Now we are talking in that also about 35% from the Palestinian they moved to Jordan, Lebanon, Syria, and Egypt. Ok, allora Naji ha detto che il 65% dei palestinesi si è spostato in Libano, Siria, Egitto e Giordania. Naji, do you still The hear us? majority of them, we Ok, talk about 90. Yeah, we talk about 95% from the Palestinian refugees. They moved to Jordan, Syria, Egypt, Lebanon, to the other Arab country as well. And the United Nations, they created their own, the refugee camps everywhere in these countries. Ok, non è al 65%, era il 95%, ho sbagliato io. E racconta di come appunto si sono spostati in questi paesi, Giordania, Egitto, Libano, e le Nazioni Unite lì hanno costruito i campi profughi. Palestinian, now the majority of them, they are living not so far from on Palestine. We're talking about 100 kilometers from the Palestinian border. They're living in Egypt, I don't know, in Jordan or Lebanon or Syria. It's not so far. Now, the end of the statistics in 2014, they were like 41. We are talking about around 2 million from the Palestinian. They recognized by the United Nations list in Jordan and in the in Gaza Strip and the West Bank. Ok, ha detto che in particolare questi palestinesi che si sono spostati nei territori adiacenti alla Palestina vivono veramente vicino alla loro casa originale. Quindi, l'ho detto, per esempio, chi si è spostato in Egitto viveva a meno di 100 km dal suo territorio, dal territorio in cui veniva. E dopodiché ha detto che 2 milioni di profughi riconosciuti dall'ONU, quindi si sta parlando di quelli riconosciuti, non è detto che sia il numero vero, probabilmente sono di più. Si sono spostati tra Giordania e Gaza. Of 1 million Palestinian living there, and in Gaza Strip also like around this number. In Syria the same. Now the major, we can say that the best problem with the refugees and the largest and the oldest refugee, they are from Palestine. And if it's the oldest catastrophe happened in the planet right now, we are talking about 72 years, and still the people, they are dreaming and fighting and struggling, surviving in order to come back, to return back to their own country following the international law 194, as we mentioned before. Nagici dice che di fatto è una delle più grosse catastrofi della storia dell'umanità, proprio perché è da 72 anni che queste persone aspettano di poter ritornare nelle loro terre e ancora oggi non è successo. Ed è questo il grosso problema e il motivo per cui i profughi palestinesi e comunque i palestinesi in generale continuano a combattere e a lottare proprio per questo loro diritto al ritorno sancito dalla legge 100, dalla risoluzione ONU 194. Now, the Nakba, it's an Arabic Nakba, kind of catastrophe, but we succeed. Like a Nakba, it's recognized by all the languages, by all the law in the planet. And the people, they still continue struggling and fighting for their rights, even in very hard condition, even in the catastrophe sphere. In refugee camps or outside the camp now, the Palestinian families, since that time they are, there is, they don't know, until now, they don't know, don't know their, not parents, but they don't know their large family, which is, some of them, they went to United States, some of them in Europe, some of them in Syria, whatever, and they can't even visit each other most of the time. When people is like living in Lebanon, for the Palestinians, it's not so easy to go to Lebanon, and for them also, it's forbidden to come to Palestine to visit them, and they don't know even where they are. I mean, they're trying, not only divided, they divided already the Palestinians, but they're trying even to force the people living in Palestine to go outside by a different way. It doesn't mean they will make massacres more. They're killing some people here, there, every day, but they don't know massacres because they don't succeed to practice the strategy of the Zionists from the beginning to create Jewish state without any others inside this state. Allora, ha detto che la Nakba, in quanto massacro e tragedia, è riconosciuto da parte di tendenzialmente tutti gli stati del mondo. E stavo un po' raccontando di com'è la situazione dei profughi, nel senso che cosa vuol dire un po' essere profugo, nel senso che la maggior parte dei profughi palestinesi oggi vivono molto distanti, la maggior parte, molti dei profughi palestinesi vivono molto distanti dalla loro terra, non la maggior parte, e in particolare negli Stati Uniti, in Europa, e c'è un'enorme difficoltà nel poter anche ritornare e rivedersi con chi invece vive nei territori più vicini a quelli originali o appunto è internally displaced, nel senso che si trova ancora all'interno di quello che era lo Stato di Palestina. In particolare è difficile anche soltanto vedersi, perché nel momento in cui Israele controlla le frontiere c'è una difficoltà per un palestinese di ritornare all'interno del West Bank o, vabbè, o Gaza, ancora peggio, e quindi c'è stata un'enorme difficoltà nello scegliere se rimanere dentro in campi profughi interni oppure nel trasferirsi fuori, ed è una scelta che poi pesa sul resto della vita. Quello che ha detto è che ancora oggi ci sono, cioè, c'è ancora in corso questo tentativo da parte dello Stato israeliano di far andare via, di scacciare i palestinesi, gli autoctoni palestinesi, e questo in realtà oggi avviene attraverso altre forme, che non è più il massacro che c'è stato nel 48 con un'occupazione di un esercito nel senso di battaglie. Ma oggi avviene tramite appunto quello che è l'occupazione israeliana, il regime di apartheid e anche tutto un sistema di leggi di cui adesso ancora non ho parlato, ma un sistema di leggi che come dire, facilitano il fatto che i palestinesi se ne vadano via o rinuncino a vivere in Palestina, nel territorio palestinese. Now, the refugee issues started during the we talk about 1947, 1922, even from 22 to 40, 150,000 Palestinians immigrate from their places to the other places, and this supported from the government in order to support the Zionism to build their own state. Dice che appunto questo tentativo questo progetto di dislocamento, di allontanamento, di pulizia etnica è comunque iniziato già prima del 48 e serve proprio al movimento sionista, perché è ancora più corretto questa definizione, movimento sionista di creare un unico stato per le persone di religione ebraica, quindi uno stato ben definito. Fatto per soltanto alcune persone, per un gruppo ristretto. Sì, in particolare, questo non si è sentito bene perché la connessione non è il massimo, ma ha detto che dal 22 al 47 c'è appunto il mandato britannico in Palestina e in questo periodo vengono riconosciuti insediamenti israeliani in Palestina e in particolare ci sono già i primi 100.000 palestinesi che vengono trasferiti dal loro territorio. Quindi, come dire, questa, no, stavo dicendo fuga, non è una fuga. Questo dislocamento dei cittadini palestinesi avviene anche già da prima della Nakba. No, I said that because we believe that the Nakba, it's not begin in 48. We talk about 100 years, since the Balfour Declaration until now. And we called it Nakba Mustamirra in Arabic. It means that the catastrophe is continuous. Every day we have Nakba. Ongoing. When they rehouses in 48 or in West Bank, now it's kind of Nakba. But we called it Nakba Mustamirra in Arabic, it's continuous. Now, for that, what we know that in general, that the international government, I mean the capital system and the imperialism, they're keeping support the Israelis to build their own state, but still they don't succeed because there is a Palestinian, they believe their own rights. And they continue struggling how much they can. We know that we have a state weapon enough, we don't have the power enough, but at least with words, with writing, with singing, with anything else, we always talking about our rights, and we're talking about the Israeli colonial system and the criminal control this country and trying to force the people to move out. But with a Palestinian, it will never stop to fight because all the Palestinians, they believe their own right and we continue struggling with, I mean, the international solidarity movement around the world trying to right. Allora, come ha detto Nagy, la Nakba ufficialmente sì, risale al 48, ma di fatto era iniziata prima e loro, la la chiamano ongoing Nakba, adesso dire in inglese, perché continua ad andare avanti questo processo, questa catastrofe, con altri mezzi, in altri modi, come diceva prima, appunto l'occupazione israeliana in Cisgiordania continua, ad esempio, questa è un'aggiunta mia, è di pochi giorni fa la notizia del governo israeliano di voler annettere altre ulteriori parti della Cisgiordania, quindi è una catastrofe che si protrae ancora potrai avanti ancora oggi, ma di fatto non arriva al successo proprio perché i palestinesi continuano a combattere per i loro diritti contro l'occupante israeliano. E anche se non hanno potere sufficiente, si riferisce immagino all'autorità palestinese, e se non hanno nemmeno gli strumenti bellici, militari sufficienti, quindi fucili, un esercito vero e proprio, i palestinesi continuano a combattere tramite le canzoni, la poesia, la forza della loro comunità, proprio perché loro continuano a credere nel loro diritto al ritorno nella loro terra. Now, when we talk about Nakba as well, we can talk about Nakba in Arabic, which is catastrophes. It's more than catastrophe because of the global system around the world. Now, the Israelis, they have like a very strong support from all the capital system, as we mentioned before. During the like in the middle of the 15th, there is a lot of Palestinian workers. They have been working in the Arab Gulf from their job and from their places, and they become as double refugees or third time refugees. In the 17th as well, many Palestinian refugees, they moved from Jordan, for example, because of the system in general. They put a lot of pressure to the Palestinian, to move their country. And during the Lebanon civil war, we talk about they leave Lebanon because of because of the civil war. We are talking about it, for example, in Arab Gulf, we talk about 400,000 Palestinians, they live in Kuwait because of the side and against the Palestinian. We talk about Libya. Now, not only we are all the refugees they left from Palestine, they have a lot of problem and discriminated even by the system. Now they're moving to, I know some families, they become refugees several times. They're moving from Palestine to Lebanon, from Lebanon to Libya, and from Libya to another country. Now, many times it's happened, and when you talk to those people, they present themselves as refugee from Palestine and they will return back to their homeland one day. Ok, allora, hai iniziato dicendo che in tutto ciò, in questo sistema di oppressione, in questo tentativo di scacciare i cittadini palestinesi, lo Stato israeliano è supportato dal sistema capitalista. Perché? Perché il sistema capitalista impone che i palestinesi debbano lavorare per vivere e lo ricorda come molti, anche dei profughi, scusa, lavorano all'interno del territorio israeliano, quindi lavorano per l'occupante, perché non perché sono cattivi, ma semplicemente perché devono vivere per poter sopravvivere all'interno del sistema capitalista, sono costretti a lavorare per Israele. E in generale non c'è soltanto il problema dei lavoratori palestinesi in Israele, ma c'è anche il problema che il West Bank e Gaza dipendono interamente, si può dire, le loro economie dipendono da Israele, interamente nel senso che comunque tutti i confini e i varchi sono gestiti da Israele, ma anche perché, per esempio, le risorse idriche sono controllate da Israele, quindi anche lì bisogna andare a comprare l'acqua dallo Stato che ti sta occupando. Questa è una cosa unica che non è mai successa in nessuna guerra della storia umana, direi. Dopodiché è iniziato a parlare anche del fatto che alcuni profughi palestinesi sono profughi più volte, Cosa vuol dire? Che non è sempre andata bene, nel senso che alcuni profughi magari si sono spostati inizialmente in un paese e poi all'interno di quel paese, come è il caso del Libano, è scoppiata una guerra civile e quindi molti profughi sono dovuti spostarsi nuovamente in altri territori e quindi già, come dire, è una seconda volta in cui si spostano. E ci sono anche altri casi in cui invece i profughi si spostano in un paese, ma all'interno di quel paese vengono discriminati e quindi sono costretti di nuovo a spostarsi in un'altra parte. Ogni volta cosa vuol dire spostarsi? Non è che si va a fare una vacanza. Vuol dire che la casa che ti sei costruito, che ti sei comprato, la famiglia, il lavoro, il territorio con cui ti sei affezionato e in cui vivi, lo devi lasciare, abbandonare tutto e ricominciare una nuova vita da capo in un altro stato dove c'è delle persone che non ti conoscono, dove probabilmente ti discriminano e ogni volta succede tutto questo da capo. Now, why we are Palestinians, we don't believe the international law. Because our rights to following the resolution 194, now, it's exist their desk in their offices, but in fact, there is nothing, they will not practice it because they recognize, even in 2020, in this year, they recognize as state of Palestine of Israel without even talking about the resolution 194. It means that the capital system, the imperialism in general, support Israel to create their own state, and they don't believe the Palestinians. And most of the time, the Palestinian they going to the, I mean, the inter following the international law, going to Geneva, whatever, talking. Presented their our situation here in Palestine, how the military used all the guns, even with some weapons as forbidden international by the international law, also still exists. They're using the drone bullets, they're using anything, defense the wall, the new colony. But they do now for that, a Palestinian, if you ask me as a Palestinian refugee, live in my country, about the international. National law. For me, I don't believe it at all. It's a propaganda in front of the world. It's because the Israelis as well, they control all the media, and what they explain to the media that the Palestinian, they are very few, whatever, and Muslims, they can't judge by different way. But in the same time, they're using all the weapons, all the power to force the Palestinian to be as slaves or to move even from this country because they are not welcome. We are discriminating every day, even for the Palestinian living 48. They don't, there is no equality at all comparing with the Israelis living in that place. Ok, allora, Naji dice che ormai loro non credono più nella legge internazionale perché fin da quando è stata promulgata la risoluzione 194, quella del diritto al ritorno, in realtà alla fine tutto ciò è stato soltanto delle belle parole, come dire, solo un documento di cui però non viene messo in pratica il contenuto. E lui ha detto anche quest'anno, anche nel 2020, comunque lo Stato di Palestina viene riconosciuto che esiste a livello internazionale, ma nella pratica questo riconoscimento non porta a nulla, nel senso che non viene per esempio mai in nessun documento ufficiale trattato il problema dei rifugiati. Il problema dei rifugiati, dei profughi, rimane lì come se non esistesse e anzi si fa finta che appunto non esista. E nonostante la legge internazionale che riconosce il diritto al ritorno, che riconosce l'esistenza dello Stato palestinese, che riconosce più in generale i diritti umani di tutti i palestinesi, questo non è servito per esempio a evitare la costruzione del muro, a evitare il sorgere di colonie all'interno dei territori palestinesi, anche se questo appunto è illegale anche dal punto di vista del diritto internazionale, non vieta le incursioni dei soldati all'interno dei campi profughi, non vieta di per l'esistenza dei campi profughi. Quello che dice lui è che tutte queste leggi alla fine vanno a fare soltanto il gioco di Israele, nel senso che Israele può farsi forte dicendo che comunque esistono delle leggi che tutelano i palestinesi e quindi, come dire, ci sono delle leggi, basta, cos'altro volete? Nella pratica però poi Israele non le rispetta, ma nessuno della comunità internazionale, quindi nessuno a livello internazionale, in qualche modo sanziona o punisce Israele. E Israele non si limita ad utilizzare per i propri fini l'esistenza delle leggi internazionali, ma lui dice utilizza tutte le armi di cui possono disporre, e armi non soltanto nel senso fisico, quindi mandando appunto i soldati a occupare il territorio palestinese, a costruire dei checkpoint, le carceri con la legge militare, la legge marziale, eccetera, eccetera, ma anche le armi economiche, come abbiamo detto prima, il capitalismo è utilizzato, è un'arma economica nei confronti dei palestinesi che devono decidere se diventare in qualche modo schiavi dello Stato che sta occupando i loro territori oppure andarsene via. E dall'altra parte anche le armi della propaganda, le armi mediatiche, per cui Israele continua a sovvenzionare anche negli stati europei e negli Stati Uniti campagne per cui per esempio si dice che in realtà i palestinesi sono molto pochi, che la maggior parte sono andati via o che quelli che rimangono sono terroristi e compagnia bella. Now, the Palestinians, I mean, during the Balfour Declaration until now, they always, if you follow the story, that the biggest in the world, they're taking place in Palestine for 6 months against the British and the Zionism movement in that moment. 6 months with strike, totally strike, blocked. And if you follow after that, each 2 years, 3 years, it's happened kind of intifada in Palestine. And we remember what's happened, for example, in the first intifada and second intifada. And the people, they never stop asking for their rights. And they start believe, educate themselves how to resist, how to against the Israeli colonial system. And you get every day, you know, the Israelis, they create something. And after Oslo Agreement, which is in 19, when they created, they support to have like a group of the Palestinian, through PLO, I know that. It's a political party. It's a shame. It's a shame with the political party in PLO to have an agreement with Israel as a state, and they recognize it as a state, and people didn't believe it. But there is no one asked the Palestinian inhabitants, the Palestinian struggling daily about their rights. They just take a decision to negotiate with Israel about, you know, to recognize the Israeli state in 48, and also the Palestinian, they can have a state in West Bank. But after ever slowly, until now, many people, they agree with Oslo Agreement as I mean, negotiation with Israel. In fact, people, they are against it between themselves because they don't have any support from over the world, and they continue struggling, even silent somehow. Some people, they keep silent because they don't have the capacity, they don't have any kind of support to keep resisting. But in one moment, you can see many thousand people, they go into the street and fighting, struggling. Now, the same than in Syria, they have no rights even to struggle and to loud voices to against Israel, because of the system in general, they don't feel free even to talk about this issue. And we know how many Palestinians in Syria, how many Palestinians in Lebanon, how many Palestinians in Jordan, in everywhere we need. When they start moving, talking about Palestine, they will be in jail forever, and they will kill like many others. We don't want to talk about the Mossad, how much they killed a lot of writers, a lot of poems, a lot of strugglers, a lot of fighters in the world. They killed them even outside the country. What's happened in Tunis, they killed a lot of militants in Tunis. I mean, They can do whatever they want, but the good things that the Palestinians, they still believe in their right, and they will continue struggling. I mean, in the very, I mean, without any kind of struggling their freedom. Allora, è abbastanza complicato tradurre tutto questo. Nagy ci racconta che in realtà subito dopo la dichiarazione di Balfour si è creato un vero e proprio movimento palestinese politico che ha opposto resistenza anche militarmente alle incursioni sioniste militare di questi gruppi d'assalto, e ci sono stati sei mesi di vera e propria battaglia, ma di fatto poi questo tipo di scontro si è andato a affievolire negli anni ed è poi ritornato con la prima e la seconda intifada, ed è stato un momento di grandi scontri, anche se completamente ad armi impari, e dove però i palestinesi hanno soprattutto imparato a confrontarsi con questo tipo di quotidianità, la prima intifada dell'87 e la seconda del 2002. Di fatto in questo modo i palestinesi hanno imparato ad opporsi al sistema coloniale israeliano, e hanno anche imparato a fare un po' forza soltanto sulle loro risorse. Negli anni si sono anche resi conto di quanto fosse fasullo fossero fasulli gli accordi di Oslo del 1993, dove grazie agli Stati Uniti sembrava che ci fosse un totale riconoscimento di entrambi i poteri in gioco, quindi quello israeliano e quello palestinese. È stato creato l'OLP, ma è di fatto una vera e propria presa in giro nei confronti del popolo palestinese. E anche se qualcuno ci aveva creduto all'inizio, col passare degli anni, molto in fretta, in realtà i palestinesi, il popolo, ha smesso di avere fiducia e reputa quegli accordi una vera vergogna per la Palestina tutta. E questo porta i palestinesi ad opporsi con tutto ciò che loro hanno a disposizione. Quindi magari non hanno le armi belliche che ha a disposizione invece lo Stato israeliano, ma loro hanno portato avanti proprio anche questa lotta a livello culturale e sociale, senza l'apporto poi di fatto, il sostegno dei governi internazionali, dell'ONU. Lo fanno tramite una rete di solidarietà internazionale, perché si rendono conto di quanto sia anche colonizzata da questo punto di vista anche la società internazionale, e che di fatto fa il gioco del sistema imperialistico, e quindi non muove niente contro Israele, anzi lo lascia completamente indisturbato agire contro il popolo palestinese, contro i diritti umani, ma proprio per la fiducia che loro hanno e la speranza che hanno nel loro diritto al ritorno, proprio per questo loro continuano a lottare, ogni volta reinventando le loro pratiche di resistenza. Generations, if you ask 1 5 years old or 6 years old, he will tell you exactly he's from where originally, and he will he asked for his right to return back to to his homeland, because the story it's never die. It's coming from the first generation to second to the third. Now for that you can see like 14 years old kids, they're moving to the street against the Israeli weapons, the Israeli army, when they attack the areas. Now, this is the dream of Israel. It will never exist. It will never happen. It will never hit. Now, you see how the people in Ya'bad last week, they're fighting against Israel when the Israeli army with their bulldozer, with their weapons, even with helicopter, they could demolish one house in Ya'bad. For the guy, he had been arrested in jail. Now, one Israeli soldier, he died by stone. And after that, you can see everybody start crying because there is one soldier, he get killed by stone. Why? Now, Palestine, but in the same time, there is nobody think about how much they attacked the village with the winds, with the helicopter, with the soldiers, with whatever 100 soldiers they came, and they, nobody take care about that. Nobody even talk about it. But they give attention for the soldier. One soldier, he get killed because of some guy, he throw stones, and by that. Now, this is no fair, actually. Nagy ci dice che un modo per resistere, una loro pratica estremamente forte di resistenza è appunto la trasmissione della loro storia, ed è per questo che se si va a chiedere a dei ragazzini, dei bambini già molto piccoli, sanno perfettamente rispondere da dove provengono le loro famiglie, da dove sono stati dislocati, quindi di dove sono originari, ed è per questo che si vedono immagini di bambini, ragazzi molto giovani in strada a combattere contro l'esercito israeliano anche soltanto con delle pietre. Soltanto settimana scorsa è successo che è stato attaccato con tutti i mezzi possibili, bulldozer, elicotteri, ovviamente l'esercito, un paese ed una casa è stata demolita. E durante questi scontri, a quanto pare, un soldato israeliano è stato ucciso da una pietra. Ovviamente nel sistema mediatico del capitalismo e dell'imperialismo subito è stata rilanciata questa immagine di questo povero soldato ucciso da una pietra, e viene subito mosso appunto a livello mediatico una risonanza enorme per questo fatto, quando poi in realtà è un soldato israeliano contro tantissimi giovani palestinesi, tantissimi uomini, tantissime anche donne che vengono uccisi quotidianamente, ma nessuno dice niente in proposito, non escono notizie a riguardo, si decide di non parlarne proprio per il gioco del sistema imperialista israeliano. E l'altra cosa che non viene detta è che cioè è il motivo per cui quel soldato era lì, perché, come dire, è morto perché i palestinesi stavano difendendo la loro casa che doveva essere abbattuta da un bulldozer, e quel soldato era lì perché stava occupando un villaggio palestinese. Quindi anche lì, come dire, se è andato lì ad attaccare e poi muori, vabbè, non voglio dirlo, ma ci siamo capiti. No, I can say that this is from our side as a Palestinian, we have like a big power of comprador. You know, comprador, the Palestinian as a comprador in this country and negotiate with Israel. comprador. Okay, Nagy. Yes, you can continue. Now, the Palestinian government, they keep negotiating with Israel, and they know that they will not have nothing. They know that except the power of the comprador, of those people, the benefits by this situation. It's Karzai. You remember Karzai. Now it's the same. They're doing the same, and the United States with the Trump declaration right now to build more colony near Jordan Valley in Jericho and in Jerusalem, and they confiscating all the areas, and they give order every day to build more colony, and the Palestinian Authority, which is the comprador, they keep continue. And talking to the people, oh, okay, now let's say we are civilian and we manage to have as a social life at least. But people, they don't look for social life. We have the social life. We have a strong social life still, and we will keep continue as a common life in Palestine. But let's to follow soon. I mean, when the people, they feel more angry, because the people, they lost their jobs, they lost their own rights in the front of the comprador and the Palestinian Authority, it will continue our resistance and we will win soon. I say soon because Israel, as false state, as Zionist state, as a criminal state, it will stay for long. We are talking about 100 years, nothing. We talk about United States, 300 years created and they occupied this place from the native people over there. 300, it's leading the world. That's what's happened. Now, economically, socially, they have like a huge conflict. And for sure, it will collapse soon. Anche qui è un po' complicato, però ci provo. Nasi parla dell'autorità palestinese come un comprador che di fatto continua questi negoziati con lo Stato israeliano per ottenere i propri benefici, infischiandosene, quindi non facendo il bene del proprio popolo. Quindi continua questi negoziati, tra virgolette, di pace, se tali li possiamo chiamare, proprio per degli scopi personali, e tutto va a discapito appunto della popolazione che di fatto pian pianino, visto che sta perdendo sempre di più le proprie case, il proprio lavoro, le proprie terre, continua ad essere sempre più arrabbiata e non riconosce nessuna fiducia ormai nell'autorità palestinese. Gli riconosce questo appunto appellativo di comprador, che fa semplicemente il gioco, in particolar modo, di Israele e anche degli Stati Uniti, che ultimamente, appunto, attraverso Trump hanno ormai dato il benestare ad Israele ad occupare ancora di più le terre in Cisgiordania, a costruire molte più colonie, e l'autorità palestinese gioca di fatto un ruolo abbastanza importante proprio perché dà carta bianca a questi due stati. E Nage dice che appunto questa cosa però non continuerà per sempre, molto presto, lui ha usato proprio il termine presto, finirà proprio perché la popolazione è stanca, è arrabbiata e crede nel proprio diritto, nei propri diritti, e per questi si batterà, anche perché ha di fronte degli stati relativamente giovani. Israele esiste da meno di 100 anni, gli Stati Uniti d'America, anche loro sono stato uno stato colonizzatore che ha di fatto invaso delle terre e cancellato la popolazione nativa, e anche loro hanno una storia relativamente breve, ed è per questo che lui crede che molto presto arriverà invece il loro riscatto e potranno veramente attuarsi i loro diritti come palestinesi. Now, from here, I can just only explain to any free people around the world, individuals or collective or an organized party, all together, think well about the international conditions around that and how many people affected by the system trying to struggle and to fight for your freedom everywhere in any country, and it will be all together we will win, because here in Palestine, as we are doing, we are as resilient now because of a lot of pressure, because of the political and economic and the social conditions. Try to just only sumud, we call it resilience. We are Samidun in Palestine and struggling also against the Israeli colonial system. And if you against the capital system and against the media and against all the power around the world, it means that we are working all together in the same direction, and we will win all together because of the capital system. It will collapse one day because of there is no human rights, there is no social rights, there is no political rights. Nobody have his right, and we refuse as a militant, as a free people around the world, to be slaves, to support this kind of system. Nagy si rivolge in particolar modo a tutte le persone in giro per il mondo che si reputano persone libere che vogliono combattere contro il capitalismo, contro l'imperialismo, contro il colonialismo, proprio perché soltanto unite in questo senso si può veramente andare a distruggere questo sistema, il sistema capitalistico, e attuare i propri diritti, esattamente come loro fanno ogni giorno in Palestina con i loro mezzi, con i loro strumenti, contro il sistema coloniale israeliano. E lui invita proprio tutte queste persone che si reputano tali, perché di fatto siamo tutti sotto il giogo del capitalismo, a combatterlo e a farlo definitivamente collassare. E ha detto in particolare che i palestini sono un esempio, potrebbero essere per tutti un esempio di resilienza, in quanto attuano questo tipo di resistenza che in palestinese si chiama sumud, che è proprio la resistenza quotidiana, e si esplica anche nel semplice continuare a vivere dove stai attualmente vivendo, nonostante la situazione di occupazione militare, psicologica, mediatica e economica e tutto quello che volete dire voi, e di prendere esempio da questo tipo di resistenza, perché finché questo tipo di resistenza sarà viva, il sistema, che può essere il sistema capitalista, il sistema imperialista, il sistema sionista, non ha vinto, perché comunque c'è qualcuno che sta appunto resistendo. Now BDS campaign, boycott Israel. It's the main topic now we have to work on for all the people they're trying to support the Palestinian cause and Palestinian resistance. I ask everybody to in charge in this campaign and to read about this campaign, to educate ourselves how we can practice the BDS and boycott Israel in order to put pressure on them to accept the Palestinian rights to return back to their homelands. La richiesta di Nagy è quella di entrare a far parte del BDS movement e di prenderselo in carico, quindi di boicottare Israele, perché questo è un tipo di solidarietà che è di grande aiuto per i palestinesi, perché vuol dire studiare, soprattutto capire di che cosa si sta parlando e riuscire ad attuare una solidarietà anche dal proprio paese, boicottare quindi tutti i prodotti israeliani e di fatto dimostrare in questo modo la propria solidarietà alla causa palestinese. Sì, il BDS è boicottaggio, disinvestimento e sanzione, giusto per ricordare esattamente che cos'è. Yes, Nagy? Yes, Giulia. Ok. No, I was thinking you wasn't there. No, I'm here. Ok, now if you have anything. Ah. No, I think the last thing you said is very important, because every time from Italy, from Spain, from France, from everywhere in the world, I heard people say, "Oh, what I can do for you." And keep in charge with the BDS movement, I think, is very important from our states to not to help but to demonstrate our solidarity and to struggle in a way we can do from our states, our places. I think this is very important to know it. And this is another point. It's more important. What we can do for ourselves now, yes, is to change the world. Right? Yeah, we have to think as all together. If you have success in some point in Italy, Africa, or in Europe, or everywhere, or in the United States, it's success for everyone. Yeah, because all by the system. If the people look at the coronavirus, they asking the stupid, they asking the people home, stay home, don't move out, while millions of people, they stay in the street, they are houseless, they don't have houses. This is painful for me. Yes. How the people, they can stay at home because of the disease, and they don't have Sì, Nagy ci dice che in realtà questo tipo di mentalità, approccio e pratica non è soltanto in solidarietà del popolo palestinese, ma è una pratica di resistenza per ciascuno di noi proprio per combattere il sistema capitalistico. E lui vuole mettere in evidenza alcune contraddizioni, ad esempio molto specifiche di questo periodo storico che stiamo vivendo tutti quanti per l'epidemia del coronavirus, proprio perché i vari governi hanno chiesto e imposto a tutte le persone di rimanere a casa, quando però ci sono milioni di persone che non hanno una casa, sono dei senza tetto e vivono per strada. Quindi anche qui la contraddizione del come fai a imporre determinate regole a delle persone quando non ti sei preso cura di loro per fornirgli gli strumenti necessari a vivere una vita dignitosa e affrontare anche un'epidemia del genere. Quindi questo tipo di pratiche politiche non sono soltanto in solidarietà, ma sono proprio una pratica di resistenza quotidiana per ciascuno di noi. Sì, volevo sottolineare solo la frase che ha detto Nagy, che è quella di, ha detto proprio, quello che potete fare per aiutare i palestinesi è iniziare a pensare sul vostro territorio che cosa potete fare per resistere, perché come ci tiene lui, questa è una cosa che sottolinea sempre, il capitalismo, il sistema capitalistico è strettamente collegato con i sistemi di discriminazioni che avvengono sia a livello economico che a livello sociale, e questa dei senza tetto che non hanno una casa dove stare in casa è un'ulteriore discriminazione che queste persone più povere, questa classe sociale più povera subisce. Come il sistema capitalista sia diffuso ovunque e sia di per sé un sistema di oppressione e discriminazione, quindi ognuno di noi può fare qualcosa contro questo sistema e in qualche modo già di per sé questo aiuta la lotta palestinese nel momento in cui lo Stato israeliano si fa gioco del sistema capitalista per opprimere i palestinesi. Yes. Ok, Nagy, thank you so much. Was very interesting and a lot of history for us. Yes. Nagy, how's the weather there? Just to talk about something less. Very good. Sorry? It's very hot here. Very hot, okay. And what did you do yesterday? Because Julia told me that last year, there was like a game between the different refugees camp during the commemoration. Yes. Is this happened also yesterday? Yeah. Ah, yeah. Okay. Who won? Which? Well, really, it's. I mean, but at least, what's happened. It's just only to refresh the mind of the people to have more information about. Yes, it's right. But we done a lot of conferences. We do a lot of meetings. Still have a lot of training also, you know, with the kids. But we use Zoom or Skype, whatever, we continue. But in the same time, we hung a lot of, in my house we have like many flags, black flags and Palestinian flags as well, and we make the fire in front of the camp as a memorization for the Nakba, two times yesterday and the day before, with a lot of people also around. I published some photos in Aida camp as well, and the Israeli Jews, they attacked area with tear gas as well. Now we can do as usual, but I mean, yeah. Ah no, che hanno fatto, sì, ci sono queste commemorazioni, ci sono stati vari incontri, vari anche via web per parlare della Nakba, e hanno fatto una piccola commemorazione davanti alla sede delle Nazioni Unite lì al campo profughi. Hanno acceso questa fiaccola, questo viene fatto ogni anno. Ci dice che purtroppo an anche nel campo di Aida sono state fatte appunto queste commemorazioni, ma purtroppo oggi è arrivata anche a noi la notizia che il campo poi è stato attaccato dall'esercito israeliano con il tear gas. Però loro appunto continuano nonostante tutto a mettere importanza proprio per la memoria storica e quindi commemorare questi avvenimenti. Sì, ci ha detto anche che inizialmente io ho chiesto, vabbè, ho chiesto com'era il tempo, giusto per, ma io ho chiesto se anche quest'anno avevano fatto il gioco di cui ci parlava prima Giulia tra i diversi campi profughi. Non mi ha detto che ha vinto, però ha detto che questo gioco l'hanno fatto e che per lui più che altro è un modo come un altro per ripassare la storia e che la parte più bella in realtà non è il gioco di per sé, ma è proprio tutta la preparazione che si fa per arrivarci e quindi questa trasmissione di sapere anche verso i più giovani, no? Ok, Nagi. Ok, I think that it's okay. Thank you. Thank you. Shukran kteer for your time. Naji? Okay, there's some delay between us, between Italy Julia? and Palestine. Okay. Yes? Do you still hear us, Naji? Me? We can't hear you. I soliti problemi tecnici. Technical problem. No. No, Naji, we can't hear you. I send you photo. Ah, ok. Ah, okay, yeah, thank you. Perfect, shukran. Ci ha mandato le foto, per piacere. I will publish also in Yeah, on face the radio Facebook. Telegram channel Yes. and on Facebook of Okay. the radio of ZAM. Yeah, thank you very much. We will do it now. Okay. Okay. This is my mom. Nice. This is, sorry. I mean, I still have it, no? Naji, try to repeat because we can't listen. Ah, is the picture with your mom? But I can't see it. Yes. But I remember. I think I remember this picture. It will open up, you know. I publish it actually in British book. Okay, I Okay, will share perfect. it with Everybody. our Facebook page. Okay, we Thank you can. so much, Manaji. And thank you for your speech, Okay. what you said today, because Well, I think it's very important. yeah, I know. I appreciate what you are doing, and we keep continue fighting. It's kind of, yes, I believe it. Thank you so much. No, thank you, Naji, really. Okay. And we will speak again soon, okay? Ciao, ciao. Ciao, Najim. Ciao, ciao, ciao. Say hi to everyone. Ciao, ciao. Bye. Bye. Ok. Ci spiace per i problemi tecnici. Oggi si sentiva veramente male. Sì, oggi scusate davvero tanto, sia per il ritardo che per la connessione, per le nostre traduzioni. Però direi che Nagi è sempre molto chiaro. A me piace tantissimo quando, cioè, i collegamenti che riesce a fare lui, in realtà non solo lui, tra l'imperialismo, il colonialismo e il capitalismo, e come queste cose in realtà siano soltanto facce diverse di una stessa medaglia. E, no, un solo pensiero che mi è venuto in mente mentre lui parlava, è è una cosa a cui ho sempre pensato. Spesso si parla di guerra israelo-palestinese, si parla del conflitto, della guerra, appunto, proprio come se ci fosse una guerra lì. E in realtà questo termine per me è molto improprio, perché una guerra prevede che ci siano due eserciti o perlomeno due forze che hanno, appunto, sono confrontabili tra di loro, che si affrontano in battaglia o quello che è. E purtroppo la situazione non è per niente questa. Qui si tratta proprio di un'occupazione di uno stato d'apartheid, in quanto la forza israeliana è estremamente maggiore. Da tanti punti di vista, tutti quelli che abbiamo detto, dal punto di vista economico, dal punto di vista mediatico, dal punto di vista militare, rispetto alla forza palestinese, che però, cosa fantastica ancora di più, nonostante tutto ciò, continua a resistere e a non dar la vinta a questo popolo sionista che si vuole imporre. E vabbè, Allora, no, allora, 60 minuti. No, io direi che mettiamo. adesso alleggeriamo con un po' di musica Sì. e forse ho una sorpresa, Attenzione, forse ho una forse. sorpresa, vediamo se riesco a organizzarla nel Secondo me tempo c'è di la una sorpresa, musica. aspettatevela. Mi raccomando, rimanete connessi, sintonizzati con Radio ZM, con la Palestina, perché c'è una bellissima sorpresa che vi aspetta. Allì. وشوي لحم ايديا Io adoro questa canzone, è proprio stupenda. E adesso vediamo se mi riesce questa cosa. Let's try. Non ne sono sicura. Stiamo trasferendo la tua chiamata. No. Il primo tentativo è andato male. Ai ai ai. Niente, avevo intenzione di chiamare la nostra compagna e amica Leila. Lei è una palestinese di seconda generazione. Vabbè, generazione. Cosa stai dicendo? Degenerazione. Aia, pubblicità occulta. Ai ai ai ai ai. E vabbè, magari ci riprovo tra un pochino. Nel frattempo io volevo parlarvi, non mi eleggo a grande letterata né tantomeno a attrice, perché non lo sono, però c'è un autore palestinese che io amo tantissimo, Mahmoud Darwish. Lui è un poeta e scrittore, ha scritto sia libri di narrativa che anche saggi di politica. Ne abbiamo parlato anche nella scorsa puntata, se non sbaglio, vero? Sabato scorso abbiamo accennato lui. No, era una poetessa. No, abbiamo... ok, ma abbiamo detto che tra i vari... Lui è di fatto, sì, il più... Ah no, aspettate, forse ora va la mia sorpresa. Va. Sono emozionata. Pronto? Ciao Leila! Ciao Leila! Ciao, come va? Bene, benvenuta sulla nostra radio. Sei in diretta, in diretta. Attenzione. Sei in diretta. Sì. Ci sono più o meno 170.000 spettatori tutti, allora. In questo momento. Benvenuta alla Usalla, anche a te. Aspettate che esco qua dal covo. No, è stata un po' un'improvvisazione. Sì, ti sentiamo bene. Ok, ci sentiamo, perché siamo qua in una situazione di riorganizzazione dei volontari della Brigata Renamo Dossi e quindi c'è un attimo di fermento, però sono con voi. Ma ti ruberemo, mi avevi detto che eri un po' impegnata, però ho detto vabbè, almeno qualche minuto magari riesci a donarcelo. Non posso tirarmi indietro. E io so che ieri hai tenuto una diretta Zoom, credo, proprio sulla NACBA. Sì. E sì. Noi oggi abbiamo chiamato Nagi, che tu conosci molto bene, e certo. Ci siamo fatti raccontare proprio tutta la storia dal principio. Caspita. E non lo so, a te volevamo un po' chiedere, magari anche un po' più sul sentimentale andavamo. Proprio... Andiamo sul sentimentale. Proprio perché tu sei una palestinese di seconda degenerazione. Ancora vedi, ogni volta lo dico. Degenerazione, continua a dire così, Giulia. C'ha questa... Di seconda generazione, il tuo papà è palestinese, sì. E non lo so, sì. Cosa significa anche magari vivere queste emozioni, queste commemorazioni, questi ricordi, queste... Sì. Attraverso gli occhi di una ragazza che però magari vive anche lontano in Italia, quindi immagino ci siano tutta una serie di contrasti anche. Assolutamente. Non lo so, dici un po' quello che vuoi Leila, okay, sei liberissima. Allora vi racconto un po' la mia NACBA, insomma, se ho capito bene un po' qual è la vostra curiosità. Comunque, vabbè, al di là di quello che ho detto ieri, questa diretta con i giovani palestinesi d'Italia, partirei proprio da questa, nel senso che il gruppo dei giovani palestinesi d'Italia è un gruppo che rappresenta i ragazzi e le ragazze di seconda generazione sparsi per tutto il territorio nazionale, ma non solo, anche perché ci sono ragazzi che ad esempio sono arrivati da poco dalla Palestina per motivi di studio e motivi di lavoro. E, la cosa interessante è stata in questi giorni per me è stata confrontarmi con loro su questo tema. Il tema della Nakba, quindi un po' della catastrofe che ci portiamo dietro da 72 anni. Ovviamente confrontandomi anche con le generazioni prima della mia, quindi con i compagni del campo profughi di Brescia o con mio padre, ad esempio, la mia famiglia, abbiamo delle concezioni molto diverse. Cioè, c'è una tradizione, soprattutto nella generazione di mio padre, che sono quelli che hanno fatto magari la guerra in Libano, che hanno fatto la prima intifada, la seconda intifada, hanno un attaccamento quasi ossessivo verso la propria terra, proprio perché hanno combattuto per questa, no? Hanno combattuto proprio con i propri corpi anche, se vogliamo dirlo. E, una storia che mi raccontava lui un paio di giorni fa è venuto qua, abbiamo parlato di questa cosa della Nakba, che mi ha colpito molto, è stata l'ingenuità palestinese, nel senso vi faccio un racconto molto breve, personale, di mio nonno Hassan, insieme al mio bisnonno Farid, originari della terra di Haifa, quella che oggi è circoscritta nel territorio, nei confini israeliani, ma fino al 48 era territorio palestinese, una città meravigliosa per chi non è mai stato in Palestina. Nella Palestina storica, Haifa è uno dei porti più antichi del mondo, una crocevia, la porta del Mediterraneo, famosa per i suoi pompelmi, insomma per i suoi profumi, per i suoi odori, per il paesaggio, è chiamata la sposa del Mediterraneo, sì. Haifa. E niente, i miei nonni nel 48 ingenuamente, venendo da una famiglia di contadini, decidono di partire e di andare verso Jenin, dove mio nonno Hassan conoscerà mia nonna Rashidi. E decidono di partire perché la situazione si stava mettendo un po' male, iniziavano le prime espulsioni. Ricordo che Haifa è stata una delle prime città a subire il disastro della Nakba, proprio per la sua importanza strategica a livello commerciale. E una volta partiti, hanno lasciato casa nella speranza di poter fare quello che noi facciamo abitualmente, ad esempio con un lavoro stagionale, quindi partire all'inizio della bella stagione, andare a fare il raccolto e ritornare a casa alla fine del raccolto. Questo ovviamente non avvenne perché i soprusi verso Haifa iniziarono verso febbraio del 48, fino a quando nel maggio del 48 venne decretata la nascita dello Stato di Israele, mio nonno e suo padre non torneranno mai più. E nessuno della mia famiglia è mai tornato, nessuno della famiglia a parte io e le mie sorelle e mio padre, che nel 2017, quando ormai anni dopo Oslo e dopo aver concesso la possibilità a molti fedayin, come si chiamavano allora, palestinesi, di poter ritornare in patria, siamo andati ad Haifa. E io penso che il racconto, cioè aver visto mio padre camminare sulle strade di suo padre, prima ancora di suo nonno, cioè è stata una delle emozioni più indescrivibili che io abbia mai provato nella mia vita. E lui, vabbè, da arabo, da palestinese orgoglioso, che tu sai benissimo come il temperamento palestinese qual è, no? E non ha mai voluto farmi vedere comunque un cenno di turbamento da quell'emozione, ma abbiamo ritrovato il quartiere dove viveva mio nonno, dove è nato mio nonno e ancora prima di lui mio bisnonno, che è il quartiere Wadi Salib, oggi quartiere destinato agli artisti europei che arrivano in Erasmus, che arrivano a fare progetti d'arte, quartiere gentrification della bella Haifa. E c'è dolore perché non hai diritto a rivendicarti una storia che ti appartiene, che in qualche modo fa parte del tuo sangue, della tua storia, della tua radice. Io quello che dico sempre quando mi chiedono di Palestina, quando mi chiedono della Nakba, quando mi chiedono della situazione giù, è sempre la domanda che mi sorge spontanea alle persone che mi ascoltano, mettetevi nei nostri panni. Cioè, come reagireste voi, anche le persone che ascoltano la bellissima e potentissima Radio ZAM oggi, come reagirebbero dopo 72 anni ancora a portare, a tramandare da generazione a generazione un foglio, che è questo benedetto foglio delle Nazioni Unite, che noi ci tramandiamo da generazioni, perché poi quello che noi abbiamo ottenuto da tutta questa faccenda, da 72 anni di dolore, di morte, di espulsioni, di distruzione, è questo foglio di carta che per un periodo poteva dare l'accesso a un risarcimento in termini economici. Capite benissimo che nessuna cifra, quanti zeri si possa arrivare, potrà mai ripagare la sofferenza di tutte queste generazioni. Ma mio padre e mio nonno prima, diciamo quasi in un modo, forse anche per tranquillizzarsi e per tranquillizzarci, continuiamo a tramandare questo foglio nella speranza che un giorno potremo ritornare nelle nostre case, ad Haifa, a Nazareth, a Gerusalemme, a Tel Aviv, a Jaffa, ad Acre, ritornare, anche se, e io così ti parlo col cuore perché è quello che sento. Se dovessi parlarvi con la testa, vi parlerei in un altro modo, ovviamente, perché la ragione, insomma, vedere come stanno andando le cose, il cosiddetto piano di pace, l'annessione dei territori, ma anche il blocco su Gaza, la situazione nella Palestina occupata, diciamo che non ti fa sperare un gran bene. E tempo fa avevo scritto quella lettera di diario che avevo pubblicato su Milano in Movimento, un po' raccontando questo anche senso di dolore, di frustrazione, quasi di rassegnazione, anche se il temperamento palestinese e la voglia di rivalsa, la voglia di giustizia non morirà mai probabilmente. Siamo in attesa di smettere di celebrare questa Nakba, insomma. Beh, io ti ringrazio, Leila, per le tue parole, perché sono molto, molto potenti, e io spero che il cuore abbia sempre ragione. Inshallah. E se associo quello che hai detto tu a quello che ha detto poco fa Naji, cioè voi insegnate veramente da 72 anni a resistere, a combattere per i propri diritti, e questa cosa ancora non ve l'ha tolta nessuno e non ve la toglierà nessuno comunque. No. E io spero che veramente cambi davvero la situazione in un modo o nell'altro. Io spero che appunto il cuore vinca, abbia ragione sulla ragione. Speriamo davvero tanto. E, vabbè, so che sei impegnata, quindi magari non ti rubiamo altro tempo con le brigate. Va bene. Però organizzeremo di sicuro altre conversazioni qua in radio, sì, anche con te, perché appunto, a parte il fatto che parli italiano, e quindi è anche molto più facile non per noi. È più facile. Che ogni volta un'ora tradurre diventa sempre molto difficile, anche perché i concetti, sì, espressi non sono proprio facili. E, no, per niente. E di sicuro il tuo punto di vista è un punto di vista anche molto particolare e importante, che può aiutarci a capire, sì, e avvicinarci. Poi volevo solo aggiungere una cosa, che sì, è un po' il sentimento che è uscito anche dalle discussioni, dalle conversazioni all'interno della comunità palestinese in Italia, è che noi comunque viviamo una sorta di senso di colpa, di frustrazione, che è legato ovviamente al fatto di essere qua comunque, no? Mm-hmm. Di essere in Italia. Quindi un po' con questa consapevolezza di questo privilegio, privilegio del essere lontani da il terrore, il dolore, la sofferenza quotidiana, eccetera, sei quasi scissa in due, no? Cioè, tra il costante desiderio di essere là, cioè io, confrontandomi con anche le altre persone, credevo che fosse una cosa che riguardasse solo me personalmente, ma in realtà no, cioè tutte le persone, e dico non solo palestinesi, ma anche italiani che si sono avvicinati alla causa palestinese. Poi, come diceva giustamente anche Rubio ieri in diretta, diceva cioè esiste una fase, esistono due fasi della vita, prima di essere stato in Palestina e dopo essere stato in Palestina. Nel senso che io penso che le vite di tutte le persone che sono state in Palestina in un determinato modo poi siano cambiate in un modo o nell'altro, perché vivi le relazioni, vivi la politica, vivi le passioni, vivi tutto in maniera diversa una volta che hai visto quella terra e hai conosciuto quella gente. E quindi di tramutare questo senso di colpa, di tramutare questa rabbia, questa impotenza in qualcosa, nel senso trasformiamo questa rabbia, trasformiamo questo dolore e rendiamolo rendiamo in qualche modo concreto. Io penso anche a una volontaria qua in zona 2 che è stata in Palestina 2 anni e dopodiché ha ricevuto un denai, quindi non potrà mai più rientrare, e lei vive male, no? Vive in maniera rabbiosa, vive certo. In maniera frustrante, perché non riesce neanche a farsi capire dalle altre persone che sono qua. E io quello che le ho detto l'altro giorno è: trasformiamo questa cosa, cerchiamo di informare quante più persone possibili, di organizzare quante più persone possibili, ma senza la retorica della lotta palestinese, cioè cerchiamo di rendere questo discorso più umano, più empatico, che è forse un po' quello che un po' di empatia è quello che manca un po' oggi, mi sembra di dire. Sono assolutamente d'accordo con te su tutto e soprattutto sulla questione dell'empatia, che basterebbe anche poco, non è che bisogna essere per forza palestinesi per comprendere certe cose, ovvio che le vivi in una maniera diversa, ma puoi sicuramente empatizzare e essere vicino in qualche modo. Poi vabbè, da persona che ha vissuto un po' di tempo là, sì, anch'io ho la vita che è prima della Palestina e dopo, e la frustrazione condivido è tanta. Grazie mille, Leila, veramente, per il tuo tempo. E grazie a voi. Speriamo che le tue parole riecheggino anche le tue parole riecheggino nelle teste, nei cuori delle persone che ci ascoltano e che risuonino in qualche modo e riportino ad un cambiamento. Ci sentiamo presto. A prestissimo, un abbraccio a tutte e tutti. Anche a te. Grazie, ciao. Grazie. Ciao, ciao. Hai visto la sorpresa? Sì, bella. Brava, cacchio. Che non abbiamo neanche dovuto tradurre, vabbè. Questa era la vera sorpresa. Per tutti gli ascoltatori che ovviamente hanno capito effettivamente cosa dice la persona che sta al telefono. Senza le nostre traduzioni assurde. Oggi poi pessima, io so le traduzioni, oggi sono stata veramente carente. Giulia, come si traduce quello? Sì, perché in radio manca sempre la parte visiva e certe facce non si possono raccontare. Vabbè, mandiamo un'ultima canzone, sì, e poi faccio l'intermezzo. Esatto, la parte letteraria che stai introducendo prima. A voi. Oh, sa prova. Vabbè, tanto lo sappiamo che siete in pochi ormai ad ascoltarci, siete ci avete abbandonato sul tragitto e mi dimentico sempre il volume della cassa, mannaggia a me, Lorenzo se mi becca mi... Ma secondo me Lorenzo non è tra quelli che ci sta ascoltando, quindi ascolterà sì, il podcast e si incazzerà. Urlava sulle scale o veniva qua. Era qui che arrivava. Va bene, dai, lasciamo questo momento catartico della Mercu per un altro episodio. Ce lo segniamo, Giulia? Lo sì, vogliamo. Ormai siamo in diretta da un po' troppo tempo e... Strano, Non è da noi andare avanti mai, per ore. Mai. Assolutamente. Vi ricordiamo soltanto tutti i nostri social. Faccio io. Vai. Allora, iniziamo con Facebook. Facciamo prima quelli brutti. Quindi Facebook e Instagram. C'è su Facebook la nostra pagina, si chiama Radio ZM. Stessa cosa su Instagram. Poi ci sono invece social quelli belli. Quindi abbiamo Telegram. Su Telegram c'è sia un canale che si chiama proprio Radio ZM. E dopodiché c'è anche una chat tramite cui ci potete... scrivere in diretta. Per scriverci in diretta appunto dovete digitare nella parte cerca di Telegram Radio ZAM tutto attaccato tutto in minuscolo underscore quindi trattino basso chat, quindi Radio ZAM chat per scriverci in diretta e niente, seguite soprattutto il canale Telegram che lì passano tutte le notizie anche in tempo reale e ci sono anche tutti i vari link agli altri metodi di comunicazione della nostra radio con bravissimo Riccardo, grazie. Eri preparato? Un pochino. Va bene, vi lasciamo con il nostro collegamento dalla Palestina odierno, lo chiudiamo con un'ultima canzone e vi ricordiamo che ci risentiamo sabato prossimo, probabilmente abbiamo deciso che non sarà più alle 15 perché tanto è ovvio che non ce la facciamo alle 15. È colpa mia perché mangio sarà, tardi, scusate, sarà sono terrone. Alle 16, va bene Ricky? Sì, per le 16 dovrei farcela. Yeah, allora sabato prossimo.